benvenute e benvenuti a tutti quanti. L'appuntamento a cui teniamo particolarmente è quello di organizzare un'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Da qualche anno appunto cerchiamo di trovare sempre un momento opportuno nel mese di febbraio e marzo per ricordare anche in questa biblioteca quello che è stato il dramma delle foibe, dell'esodo, ma anche la parte squisitamente culturale e la memoria di queste terre e delle persone che le hanno abitate e che poi per una serie di casualità sono arrivate anche qui in Alto Adige e quindi fanno parte della nostra comunità. Ora, la giornata del ricordo cade il 10 febbraio, ecco, non sempre si riesce a rispettare l'anniversario in quanto come la giornata della memoria quest'anno entrambe sono cadute di domenica e già con impegni ufficiali, insomma la biblioteca cerca di organizzare eventi in un altro momento, sempre e comunque accompagnati da occasioni di lettura. Avete lì di fronte una vetrina da entrambe le parti con una bibliografia aggiornata e dei libri che sono in esposizione, per cui chi volesse così approfondire l'argomento, il tema, è invitato a chiederci oppure a vedere di persona. Questa sera abbiamo con noi la professoressa Erika Migliorini-Lanzinger e il generale Vidulice, che ci aiuteranno nell'introduzione di questo filmato, un documentario che il titolo, insomma, è già, di cui il titolo è già abbastanza esplicito, ma che riteniamo opportuno, ecco, poterlo mostrare anche col vostro aiuto e con la vostra introduzione. Vi ricordo che anche domani avremo un appuntamento, insomma sono giornate intensissime. Domani sera abbiamo un incontro che ha un sapore quasi profetico alle ore 20 qua in biblioteca, perché appunto riguarderà la storia della Chiesa, il Concilio II, il Vaticano e tra l'altro anche le varie vicissitudini del Papa, ed era stato organizzato prima ancora che accadesse, insomma, quello che poi è successo. Quindi siamo di fronte, sì. Io vi ringrazio, vi invito anche chi non l'avesse ancora fatto cordialmente ad unirsi a noi sottoscrivendo il modulo di iscrizione, che è un'operazione molto rapida e soprattutto gratuita, permette a chiunque di rimanere in contatto con questa biblioteca e ricevere puntualmente gli inviti tramite le cartoline oppure via mail se lo preferite, e può permettere a tutti quanti voi di accedere gratuitamente ai nostri servizi, tra i quali si aggiungono recentemente quello della lettura online anche da casa dei giornali di 1900 riviste in 50 più lingue, e poi del servizio wireless, ovvero il collegamento senza la propria scheda SIM, per intenderci, ad internet qui in biblioteca con i propri strumenti, senza, ecco, dover andare all'infopoint. Ecco, grazie. Adesso cedo la parola. Non so se devo parlare. Sì, noi chiediamo il microfono perché. Proviamo. Sì. Ah, eccoli qua. Li abbiamo testati, dovrebbero andare. Si accende solo. Ecco. Sì. Pronto? 1, 2, 3. Pronto, mi sentite? Sì. Ecco. Bene, allora comincio sì. Io? Sì. Ho preparato, buonasera a tutti, al gentile signore e signori, ho preparato alcuni appunti su questo tema di questa sera, le foibe, oppure l'Odissea dei Giuliani Dalmati durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, le vicende delle foibe. Le complesse vicende del confine orientale d'Italia nel secondo conflitto mondiale e più in generale nel suo più ampio contesto storico sono tornate negli ultimi anni alla ribalta dell'opinione pubblica nazionale. Tale fatto è dovuto alla legge della Repubblica del 30 marzo 2004, la numero 92, con la quale è stato istituito il giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra. La data del 10 febbraio è stata scelta per ricordare il giorno in cui a Parigi nel 1947 venne firmato il trattato di pace con cui venne sancita la cessione alla Jugoslavia di Tito delle intere province di Pola, di Fiume, Zara e gran parte delle province di Gorizia, Trieste e l'abbandono da parte della popolazione italiana di numerose città della sponda orientale dell'Adriatico. La Venezia Giulia e la Dalmazia, terre di confine e di incontro tra popoli e culture diverse, sono state oggetto di notevoli eventi drammatici che hanno cambiato in meno di 100 anni l'immagine e l'essenza di questi territori, con diversi cambi di nazionalità e numerosi spostamenti delle linee di confine che hanno provocato traumi e lacerazioni in buona parte della popolazione interessata. Uno di questi eventi tragici è iniziato con l'ingresso in guerra dell'Italia a fianco della Germania e più in particolare con l'invasione della Jugoslavia da parte dell'Italia e delle forze dell'Asse nell'aprile del 1941. Con l'armistizio italiano dell'8 settembre del 1943, i reparti dell'esercito italiano, privi di ordini dei comandi superiori, lasciati senza disposizioni e senza alcun ordine, iniziarono a sbandarsi e in pochi giorni si verificò un collasso totale dell'apparato statale italiano su tutto il territorio. Molti paesi e villaggi della regione si trovarono improvvisamente in balia di se stessi e dei primi venuti. Le principali città giuliane, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, furono occupate dai tedeschi, mentre la presenza tedesca all'interno dell'Istria era poco significativa, cioè le forze germaniche avevano occupato le principali città, però all'interno dell'Istria era stato lasciato qualche piccolo distaccamento oppure facevano delle puntate con dei reparti motorizzati. In questo vuoto di potere i partigiani comunisti di Tito instaurarono i poteri popolari, cosiddetti poteri popolari. Iniziarono i pestaggi e le violenze non solo con chi si era compromesso con il passato regime fascista, ma anche nei confronti di persone che non avevano nessuna colpa, come ragazze e donne incinte, persone anziane, in un clima di selvaggi furori. Eliminazioni brutali di molti italiani bollati come nemici del popolo, fucilati, processi farsa o fatti sparire nelle grandi voragini del Carso, le famose foibe. Le violenze e le uccisioni assunsero valenza non solo ideologica ma anche nazionalistica per la presenza nelle file partigiane di numerosi esponenti nazionalisti che rivendicavano la Venezia Giulia alla nuova Jugoslavia che volevano naturalmente costruire. In tale ottica vennero presi di mira, arrestati, deportati, uccisi non solo gli appartenenti alle forze dell'ordine, i carabinieri, le guardie forestali, i questurini, i finanzieri, ma pure i presidi, i maestri, i bidelli, i podestà, i medici condotti e le lavatrici, i farmacisti, i veterinari, i dirigenti e impiegati e capisquadra di imprese industriali, cantieristiche e minerarie, segretari e messi comunali, postini e possidenti italiani, chi possedeva delle terre. In pratica tutte le figure più rappresentative di quella che era l'amministrazione statale italiana. In misura molto più ampia, queste brutali violenze si verificarono durante la primavera del 1945, con uccisioni e deportazioni in massa operate dall'esercito di liberazione jugoslavo del maresciallo Tito e dai partigiani titini. Le foibe rappresentano il simbolo di una tragedia spaventosa che colpì la popolazione giuliano-dalmata con alcune migliaia di persone gettate nelle foibe in fondo al mare Adriatico con una pietra al collo o fucilate o portati in prigionia da dove non tornarono mai più. Le stragi si inquadrarono in una strategia politica mirata, diretta a colpire non gli italiani in quanto tali, ma tutti coloro che si opponevano all'annessione delle terre contese al nuovo Stato jugoslavo. Caddero collaborazionisti e militi della Repubblica Sociale di Salò, membri dei comitati di liberazione nazionale, di Fiume, di Gorizia, di Trieste, partigiani combattenti e cittadini comuni che difendevano solamente gli interessi degli italiani in quel posto. Queste tragiche vicende avvennero anche dopo la fine della guerra, nel maggio-giugno 1945, da parte dei reparti dell'esercito jugoslavo e dalla polizia segreta jugoslava, la famigerata OZNA, così chiamata OZNA, con arresti e migliaia di deportazioni in tutta la Venezia Giulia. Nel maggio del 1945 le stime più accreditate si orientavano su alcune migliaia di vittime. Esistono liste ed elenchi con circa 6.000 vittime nominativamente accertate. Esistono e si possono trovare questi elenchi. Nella sola città di Gorizia vennero uccise 565 persone. Ricordo che nel parco della rimembranza di Gorizia c'è un monumento dove sono indicate tutte le 565 persone che sono morte, deportate. A Trieste l'azione repressiva del comunismo jugoslavo fu veramente radicale, con violenze, arresti affrettati e fatti in modo indiscriminato verso tutti coloro che erano contrari all'annessione di Trieste alla Jugoslavia. Gli arresti avvenivano preferibilmente di notte. Da documenti del governo militare alleato di Trieste, che in quel momento poi governava tutta la parte della zona di Trieste e Monfalcone, va bene, risulta che dai primi di maggio al giugno 1945 scomparvero da Trieste 1492 persone che non tornarono mai più a Trieste. Ecco, adesso passo la parola alla gentile signora professoressa Migliorini. Io ho pensato di toccare l'argomento della memoria. Il poeta recentemente scomparso, Mario Luzzi, diceva che noi siamo quello che ricordiamo, e ricordare è vivere. E nel ricordo gli esuli Giuliano Dalmati hanno ritrovato e coltivato la loro identità. Senza la memoria sarebbero state come delle foglie al vento, senza coscienza, senza consapevolezza della loro vicenda, delle loro origini e di tutto quello che, se non loro, almeno i parenti avevano subito. E quindi la memoria per molti scrittori ed artisti è una cosa fondamentale, non si può procedere senza memoria. L'altro punto che vorrei toccare è un fatto che mi è accaduto lunedì scorso, quando siamo venuti qui ad ascoltare la scrittrice Ada Zapperi, che ha scritto un romanzo, Teatro d'ombre, ambientato in Galizia, e ci ha raccontato come la Galizia dell'Europa orientale sia oggi completamente scomparsa. Una volta questo territorio, che era al di là della Polonia verso la Russia, era la provincia più settentrionale del famoso impero austro-ungarico e aveva come capitale Leopoli ed alcune altre città abbastanza aperte, evolute, benestanti anche per il commercio e l'agricoltura. Dopo la seconda guerra mondiale di questa Galizia non esiste più niente. Il territorio è stato diviso tra Polonia e Ucraina. La città di Leopoli è diventata Lvov, quasi pronunciabile per noi, ed è una città quasi dimenticata. una piccola parentesi. Conosco una signora ucraina che viene da Lvov, ecco, e lei non sa nulla di questa Galizia e di questo passato illustre della sua terra, che appunto è scomparsa del tutto, metà polacca e metà ucraina. E abbiamo considerato appunto con la scrittrice Zapperi come la mancanza di memoria renda questa gente insicura, instabile, scontenta, senza sapere perché. Ecco. E ancora una piccola citazione. E Antonia Arslan è la scrittrice che ultimamente ha portato a conoscenza di tutto il mondo la vicenda delle stragi armene. Ha scritto che la memoria può anche durare, ma finché non c'è un riconoscimento ufficiale da parte delle autorità, da parte del popolo, da parte delle istituzioni, non ci sarà mai qualche cosa di concreto e di valido che placherà questi animi degli esuli e carichi di rimpianto, di ricordi, di emozioni e personali, individuali, che non riescono mai a condividere con gli altri. E quindi, diciamo, parole proprio pertinenti alla nostra vicenda. Noi il 10 febbraio del 2004 abbiamo avuto da parte del Parlamento italiano e da parte del Presidente Carlo Azeglio Ciampi il riconoscimento delle nostre vicende, che fino a quel momento o erano state ignorate appunto sia per indifferenza che per così, tanto ce n'erano state di stragi e di sofferenze durante la guerra, no? Ma anche perché il Partito Comunista aveva voluto minimizzare e nascondere tutte le cose che avevano compiuto i rivoluzionari slavi, i cosiddetti titini. E quindi anche noi dopo il 2004, dopo la giornata del ricordo, siamo usciti dall'ombra e abbiamo cominciato a parlare. Ecco. Adesso possiamo procedere con il filmato. Dapprima le isole di Arve e di Velia e poi il 20 aprile le isole di Lussino e di Cherso. Il successivo 25 aprile le truppe partigiane sbarcarono nella parte orientale della penisola istriana, presso Fianona, per poi muovere verso Albona e Arsia. Nei giorni seguenti i reparti jugoslavi del generale Drapci giunsero in prossimità di Trieste, che venne occupata il 1 maggio 1945, unitamente a Gorizia e Monfalcone. Le truppe di Tito precedettero gli anglo-americani che, giunti nella pianura padana, avanzavano dal Veneto. A Fiume gli jugoslavi entrarono il 3 maggio, mentre più lunga fu la resistenza attuata dagli ultimi reparti tedeschi a Pola. La capitolazione delle ultime forze combattenti germaniche fu firmata a Pisidio il 6 maggio e lo stesso giorno a Pola si arresero gli ultimi militari italiani della Repubblica Sociale Italiana ancora in armi. Purtroppo nel maggio del 45 le speranze erano tantissime, speranze soprattutto che Capodistria non fosse occupata direttamente dagli slavi ma fosse occupata dagli alleati. La gente si apprestava all'arrivo, la speranza era quella di vedere appunto gli alleati alla porta della Muda, ma invece purtroppo videro arrivare i partigiani titini. I partigiani titini occuparono la città e cominciarono subito a portare in città i nostri poveri soldati italiani nelle divisioni di Capodistria, dove venivano bastonati ogni notte, si sentivano grida, urla, eccetera, e dopo la popolazione cercava di portare a mangiare anche questi poveri ragazzi che poi in lunghe colonne venivano portati via da Capodistria verso l'internamento in Jugoslavia. Sono arrivati i partigiani slavi, hanno preso i militi della decima massa che erano rimasti a presidiare le caserme, il macello, i magazzini di viveri e hanno fatto una brutta fine. Lo stesso ammiraglio Bauer con i prigionieri tedeschi concentrati nell'aeroporto di Artura è stato prelevato la sera ed ammazzato anche lui. Allora questo ha creato un po' già uno sgomento, perché siccome è finita la guerra e continuano ad ammazzare la gente. In tutta Italia si festeggiava la fine delle ostilità e l'arrivo degli alleati anglo-americani. Sul confine orientale d'Italia, invece, la storia assumeva aspetti in parte diversi, poiché in tutte le città giuliane, a Trieste, a Gorizia, a Pola e a Fiume, giunsero per primi i reparti partigiani del maresciallo Tito, che dichiararono di voler annettere l'intera Venezia Giulia alla nuova Jugoslavia che stava in quei giorni nascendo. Davanti a questa prospettiva ci furono coloro che risposero con entusiasmo, coloro che s'opposero e coloro che rimasero invece in attesa degli eventi. Gli avvenimenti presero perciò una piega molto differente rispetto al resto d'Italia. Dunque, i partigiani giunsero a Parenzo in fila indiana, mi ricordo, per uno, e entrarono in città in un silenzio di tomba, perché tutta la gente era chiusa naturalmente in casa, si guardava dietro i scuri, no? Dietro le finestre, e naturalmente c'era un clima di terrore, un clima di paura enorme, perché si sapeva già quello che facevano loro. In Capodistria poi venne istituita una specie di comitato antifascista che reggeva la città e vennero eletti alcuni collaboratori degli slavi, alcuni capodistriani che si erano sostanzialmente venduti a loro. La presa del potere da parte delle nuove autorità comuniste jugoslave, che si insediarono in tutte le città della regione, venne salutata in diverse località da manifestazioni e cortei appositamente organizzati, inneggianti alla vittoria e all'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia, in un clima di crescente entusiasmo da parte di quelle persone slave e italiane che avevano scelto di simpatizzare per il movimento partigiano di Tito. Nello stesso momento entrarono in azione gli uomini della polizia segreta jugoslava, l'OZNA, che assieme ad elementi del Movimento Popolare di Liberazione operarono in pochi giorni migliaia di arresti, parte civili, parte militari. Molte di queste persone vennero deportate lontano dalla città verso ignota destinazione. In conseguenza di ciò, in tutta la regione, soprattutto nelle città capoluogo di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, una pesantissima cappa di paura e di oppressione avvolse gran parte della popolazione. Molto spesso gli arresti e le successive deportazioni riguardarono persone che al di là di eventuali responsabilità personali, di solito non accertate, ebbero la colpa di appartenere a categorie sociali o a corpi militari che avrebbero dovuto essere eliminate in massa in quanto potevano rappresentare possibili ostacoli ai piani jugoslavi, tesi a creare tutte le possibili condizioni per l'annessione dell'intera regione Giulia alla nuova Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia. Appena arrivati a Pola, i partigiani di Tito incominciarono i famosi 40 giorni, che sono riferiti anche all'analogo episodio di Trieste. Nei 40 giorni la gente spariva in continuazione, di notte bussavano le case, prelevavano uno con la scusa di interrogarlo nella questura e poi non si sapeva più niente. La gente diceva, sa, questa notte ha preso quello lì e a un certo momento la paura tale che la gente non dormiva più nelle proprie case, andavano a dormire gli amici o il giornalista Manzin, che era direttore in un periodo del 43 del Corriere Siriano, prendo e dormiva nei rifugi di Montezano. Quello era raccontato anche successivamente, giusto un periodo di terrore per cui scappavano da tutte le parti per cercare di nascondersi. Durante questo periodo le violenze di tutti i tipi e generi verso la popolazione inerme civile erano incredibili e la notte sentiva urla di disperazione di gente che veniva bastonata, massacrata, torturata dalle sabbie che si dava un grande affare a guerra finita contro gli italiani, contro tutti i prigionieri, in modo particolare contro dei giovani ragazzi di 18-20 anni. Le specifiche direttive emesse in quei giorni dai vertici jugoslavi, tesi a fare epurazione subito, ma non del tipo nazionale, bensì sulla base del fascismo, vennero interpretate in maniera molto ampia ed arbitraria e fu considerato fascista e nemico anche chi non accettava l'occupazione jugoslava e la prevista annessione. Chi non aveva deposto le armi e non considerava l'esercito jugoslavo come liberatore. In questa prospettiva vennero pertanto disarmati, catturati e deportati non solo i militari italiani e tedeschi che si erano arresi alla fine delle ostilità, ma anche molti appartenenti alle forze dell'ordine, soprattutto finanzieri e questurini, e anche una parte di quegli esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale Giuliano e del Corpo Volontari della Libertà, che specie a Trieste erano insorti contro i nazisti negli ultimi giorni del conflitto. In questa fase di violenze furono così eliminate non solo le persone in qualche maniera legate all'apparato repressivo esistente durante l'occupazione nazista della regione, si pensi alle guardie carcerarie, ai membri dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza della Venezia Giulia e ad altri elementi collaborazionisti, ma anche diversi antifascisti o membri della Resistenza che non avevano aderito alle tesi annessionistiche jugoslave. Vi furono poi non pochi cittadini del tutto privi di particolari ruoli politici e sociali che avevano in qualche modo manifestato un orientamento filo italiano e ciò appariva agli occhi dei nuovi venuti una colpa del tutto imperdonabile. Tra questi ci furono anche diversi civili di lingua slovena o croata, generalmente anticomunisti, che avrebbero preferito il mantenimento dello status quo italiano piuttosto che l'incognita di un regime rivoluzionario. Il giorno 5 alle ore 18 qua circa, era un sabato, mi sono presentato al comando slavo. A sera ci hanno incolonnato insieme ad altri, eravamo circa una trentina e adagio adagio camminando, sempre legati con le mani dietro la schiena col filo di ferro e legati a due e due all'altezza del braccio, ci hanno portati in una località che si chiama Fianoma e là mi avessi una caserma che fosse la prima dei carabinieri. Durante la strada ci hanno spogliato quasi completamente. Io avevo un paio di pantaloni, lo zainetto che avevo con un ricambio di biancheria, qualche un pezzo di sapone, qualche cosa, ma non è sparito completamente. Anche le scarpe me le hanno portate via. Una parte delle persone arrestate e deportate dai jugoslavi venne liberata dopo un periodo di prigionia che durò da un minimo di pochi giorni ad un massimo di alcuni anni. Molti altri vennero invece uccisi nei giorni seguenti alla cattura o nei mesi successivi, o perfino dopo alcuni anni di prigionia nei campi di concentramento situati nelle varie regioni della Jugoslavia. Le persone che vennero deportate e non tornarono più alle loro case vennero uccise in diversi modi. Molti vennero fucilati o comunque eliminati in modo violento durante la loro deportazione. Altri cessarono di vivere per malattia, per stenti o anche per esecuzioni sommarie di cui furono vittime nei lunghi periodi di detenzione nelle carceri o nei campi di concentramento jugoslavi. Una parte delle vittime venne infine gettata nelle cavità carsiche, le foibe, che costellano il territorio della Venezia Giulia, o finì nelle fosse comuni, nei pozzi delle miniere, nelle cave o anche in fondo all'Adriatico, in modo comunque da celare le salme, che in seguito potevano essere recuperate solo in misura ridotta. La caratteristica comune di tutte queste uccisioni fu comunque la quasi totale assenza di notizie sui deportati e sulla loro fine. Di molte persone non seppe mai più nulla, e i familiari attesero per anni, con ansia e con angoscia, un cenno sulla sorte dei loro congiunti. La scomparsa di molte persone creò perciò sgomento anche per l'alone di mistero che circondò la loro sorte. E fu proprio il mutamento dei corpi e la conseguente negazione della pietà ad impressionare non solo i parenti stretti delle vittime, ma l'intera comunità civile. Mio padre è stato arrestato verso le 5 del mattino. Si sono presentati in casa. Naturalmente i portoni erano aperti, le porte erano aperte, perché i titini per inciso avevano appiccato dei manifesti grandi nei quali dicevano, ordinavano coprifuoco dalle 7 di sera alle 7 del mattino e portoni assolutamente aperti. E allora si sono presentati a casa nostra tre giovani, dei quali due in divisa, non sapevano parlare italiano, erano accompagnati da un giovane chiaramente del nostro contado, il quale non parlava italiano, aveva in mano questo elenco, ha detto che cercavano Ivan Morassi, sono qui, sono io, ho detto al papà, deve venire con noi. Datemi il tempo di vestire perché alle 5 di mattina. Papà si è vestito, papà ci ha salutato, ci ha detto, mi conoscono tutti, Maria, non stare un pensiero, vedrai, sarà questione al massimo di qualche giorno. Noi lo abbiamo salutato e non l'abbiamo visto più. E li hanno portati legati così di ferro uno dietro l'altro, a piedi al palazzo del Senato, a suon di calci per l'altro. E dopo naturalmente verranno fucilati, buttati nelle foibe, non so che cosa, spariti. Barcollando, cercando di camminare come si poteva, scalzi, in mezzo che le strade non erano asfaltate all'epoca, i metri sassi appuntiti, in mezzo alle spine, in mezzo a questi cespugli spinosi ci hanno fatto camminare in fila. Quando è venuto il momento che i partigiani Milano, Alpo disse, alt fermi, abbiamo capito che eravamo giunti dove dovevamo morire. Abbiamo guardato, io ho guardato almeno intorno, ho visto la bocca larga, profonda, non si vedeva sotto, buio, tutto. Fu colpito però soprattutto dal ricordo delle esumazioni dalle foibe, che vennero così a rappresentare il paradigma di un intero periodo di violenze, anche se in realtà riguardarono solo una parte dei deportati giuliani. Il termine foibe divenne nel tempo rappresentativo e simbolico della fine di tutte le migliaia di persone scomparse senza dare più notizie di sé, indipendentemente dal luogo fisico e dal modo preciso della loro morte. Nelle foibe alcune vittime vennero uccise prima di esservi gettate dentro, altre invece vennero buttate ancora vive, e si trattò di una morte agghiacciante perché l'agonia sul fondo della cavità durò anche parecchi giorni. Ma cosa sono dunque le foibe? Foiba, dal latino fovea, fossa, abisso. Le foibe sono delle cavità naturali, spesso delle vere e proprie voragini a forma di imbuto, particolarmente presenti nel paesaggio della Venezia Giulia, che sprofondano più o meno verticalmente nel terreno per decine di metri, talvolta con salti di 200-300 metri, assumendo le sembianze di autentici pozzi naturali, di abissi che fendono improvvisamente il territorio. Le foibe in Istria sono parecchie, molte ancora sono inesplorate, non si conosce né il numero delle vittime né le località, però alcune di queste foibe sono state esplorate dal maresciallo dei Vigili del Fuoco Arzabiz assieme a una squadra di 5 Vigili del Fuoco e portarono parecchie centinaia di vittime su alla luce con sommo pericolo per il maresciallo Arzabiz che raggiungeva profondità fino ai 200 metri per cunicoli delle voragini per cui riusciva a passare a malapena per portare alla luce questi cadaveri di gente che la maggior parte erano poi anche gente civile senza nessun né divisa né meccaniche politiche o militari, addirittura anche donne e bambini. Li hanno buttati tutti in foiba. Li hanno buttati tutti in foiba, nella mia campagna su Araun c'è questa foiba, erano tutti ubriachi, fuori di testa, hanno dato le mitragliate, li hanno buttati dentro, poi hanno buttato delle bombe a mano, le pietre, i materiali terrosi, eccetera. E la gente del paese vicino era atterrita. Dopo i 5 partigiani si sono ritirati, hanno cominciato a sparare, ma io come una coda dell'occhio ho visto aprire il fuoco e dalla canna uscire questo fuoco. Mi sono buttato dentro la foiba trascinando tutti quanti gli altri. All'ultimo avevo legato anche un sasso grosso, ma ben grosso, che è caduto con noi e siamo precipitati. Sono precipitato, ma precipitato dentro all'acqua. Ho fatto un salto di un 15-20 metri e sono arrivato dentro. Ho smaniato in tutti quanti i modi perché mi sentivo tirare sotto, sotto, sotto e sono riuscito a liberarmi una mano con questo colpo di mani verso la superficie. Ho sfiorato una zolla che credevo una zolla con dell'erba, erano i capelli di quello che era dietro a me, ho preso i capelli e l'ho tirato su. Chi era? Era un secondo, ringraziando Dio. Sono riuscito a salvarlo. In due ci siamo salvati. Io e Radeticchio Giovanni. Tutti i giorni siamo arrivati dentro, la sera siamo usciti e abbiamo cominciato la nostra marcia verso casa. Sbaglieremmo se volessimo limitarci a leggere la sua pagina nelle foibe, dimenticando invece il contesto storico in cui questa vicenda va inquadrata. C'è infatti il rischio di dimenticare il flusso di avvenimenti che causarono questi fatti. E allora? È bene subito precisare che le vicende delle violenze jugoslave della fine del secondo conflitto mondiale trovano origine non solo in ciò che era successo pochi anni prima, come l'attacco dell'Italia alla Jugoslavia del 1941, ma anche in ciò che era avvenuto molto tempo prima. L'intera questione dei rapporti italo-slavi in generale e italo-sloveni e italo-croati in particolare andrebbe infatti inquadrata in un più ampio contesto storico che tenga conto di come gli opposti sentimenti nazionali, italiano, sloveno e croato, avessero iniziato a svilupparsi almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento, all'interno dell'impero austro-ungarico. Queste tensioni aumentarono poi in modo drammatico nella prima metà del Novecento, in particolare alla fine del primo conflitto mondiale, e anche dopo, quando le opposte ideologie contribuirono a fomentare gli odi tra le varie componenti. Vi furono nel tempo diverse ondate di violenza per mano jugoslava. Ci fu una prima ondata nell'autunno del 1943, subito dopo l'armistizio italiano, quando le principali città della Venezia Giulia vennero occupate dalle truppe tedesche, mentre invece il movimento partigiano di Tito occupò le parti della penisola istriana, non toccate dall'avanzata nazista. In queste zone il potere venne assunto dai comitati popolari di liberazione e a Pisino in particolare gli esponenti di punta del movimento partigiano chiesero l'annessione dell'Istria alla Croazia. Rimasero al potere per quasi un mese e in questo periodo ci fu un'autentica folata rivoluzionaria che si alimentò di due diversi fattori. Ci fu innanzitutto una rivolta di carattere sociale indirizzata a danno dei possidenti, dei commercianti, dei dirigenti e dei quadri impiegatizi. E poi ci fu un connotato politico che colpì coloro che in qualche modo erano i rappresentanti del regime fascista e più in generale dello Stato italiano. Vennero così uccisi non solo diversi dirigenti e iscritti del partito fascista, ma anche molti appartenenti alle forze dell'ordine e diversi militari dell'esercito e poi ancora podestà, segretari e messi comunali, insegnanti, farmacisti, medici condotti e infine pure parenti delle persone che si volevano colpire. E ci furono così linciaggi e violenze anche a carico di donne e ragazze colpevoli di appartenere a famiglie che dovevano essere pulite. Rovigno ha avuto due fasi, anche il suo 43 oltre che il 45. Nel 43 con la caduta del fascismo c'è stata una prima sciacquerie di popolo che ha coinvolto i Rovigni stessi. In questa prima fase sono scomparsi molti rovinesi e la seconda fase del 45 ha coinvolto ancora più persone. La cosa che che va rilevata è che i colpiti non erano solamente elementi del fascismo squadristi, ma hanno colpito dai negozianti a persone che non c'entravano assolutamente nulla. Il caso emblematico è quello della famiglia Ba, in cui viene ucciso il padre. Durante il funerale vengono prelevate la figlia e la moglie e vengono ammazzati anche loro. La figlia aveva addirittura 12 anni. Un altro caso emblematico è quello della cosiddetta baronessa Utterot, la baronessina, che era una figura di spicco della Rovigno dell'epoca, che era conosciuta proprio per le sue tradizioni in favore dei poveri di Rovigno, che venne prelevata e gettati in mare. E a Merignana, per esempio, il 21 e 23 settembre del 1943, una banda di partigiani slavi ha infoibato 44 persone in due giorni. Le informazioni sono state fatte mentre tutta la gente è stata costretta a stare in casa con il coprifuoco. Però poi sappiamo da quello che ha raccontato i cosi che questa banda di partigiani si giocavano anche a carte i vestiti orologi che hanno preso gli infoibati. Questo è stato un episodio che ha portato nel successivo rastrellamento tedesco a una paura della gente che scappava da tutte le parti, perché dicevano i tedeschi verranno, saranno tre foibe e corsero tutto il paese. Infatti quando sono venuti i tedeschi, il 1 di ottobre, la gente era scappata giù dalla chiesa, sul pianoro che va giù dicendo verso Bedena, e i tedeschi da dietro la chiesa hanno cominciato a sparare sulla gente. Le violenze del maggio-giugno 1945 hanno caratteristiche in parte diverse a quelle del 1943. Intanto avvengono dopo la fine delle ostilità e coinvolgono tutte le principali città e paesi della Venezia Giulia, interamente occupata dalle truppe del maresciallo Tito. Poi riguardano un numero molto più elevato di vittime rispetto a quanto avvenuto nell'autunno del 43. Mentre nel 43 si parla di circa 500 persone deportate e uccise, con 217 salme esumate dalle varie cavità, nel 45 l'ordine di grandezza tra civili e militari è di alcune migliaia di scomparsi. Anche nel 45 assistiamo a Trieste, a Gorizia, a Pola e a Fiume alla deportazione di molti civili e militari che spesso, al di là di eventuali responsabilità individuali, ebbero agli occhi degli jugoslavi la colpa di appartenere a categorie sociali o a corpi militari, quali per esempio le forze dell'ordine, come i carabinieri, i finanzieri, gli agenti di polizia, tutte categorie che avrebbero dovuto essere eliminate in quanto possibili ostacoli ai piani annessionistici dei vertici slavi. Lo scomparvero anche da capolista e finirono nella foiba della frazione chiamata Laura, dove venivano buttati dentro, e ancora oggi recentemente sono stati trovati dei corpi. Eccoci, siamo ora all'imboccatura della foiba Plutone, l'abisso Plutone, a pochi chilometri da Basovizza e a pochi chilometri anche dal centro città di Trieste. In questo abisso, che è una foiba naturale, furono infoibate parecchie persone dai partigiani di Tito durante il secondo conflitto mondiale e soprattutto da membri e partigiani dell'esercito popolare di liberazione durante il periodo di occupazione della città di Trieste nel maggio-giugno 1945. Furono ritrovati ed esumate 21 persone all'interno di questo abisso. Tre di queste furono infoibate quasi certamente durante il 1944 e tutte le altre al termine appunto del maggio del 1945. Molti di essi erano membri della polizia penitenziaria delle carceri di Trieste ed alcuni anche semplicemente civili. Al termine del secondo conflitto mondiale venne istruito un processo in Italia per condannare i responsabili, alcuni dei quali furono identificati ed anche condannati, alcuni furono giudicati in contumacia. Tra questi vi fu implicato nella sparizione di alcune persone infoibate qui anche l'attore comico molto noto in città, Ceccherini. La prassi era quella di rapire le persone o comunque prenderle durante la notte nelle loro abitazioni nel centro città e tramite dei camion farle giungere a pochi centinaia di metri da questa imboccatura all'imboccatura della dolina in cui ci troviamo. La dolina, come si sa, è una conca carsica sul fondo del quale poi si apre l'imboccatura dell'abisso. Giunti sulla strada carrozzabile con il camion, poi i malcapitati venivano fatti scendere a piedi la notte, venivano fatti raggiungere l'orlo della foiba e qui infoibati. In questa veloce panoramica non vanno dimenticate le colpe dell'Italia, sia prima del secondo conflitto mondiale che dopo l'attacco e l'occupazione della Jugoslavia. Ma se noi oggi condanniamo giustamente la violenza, non possiamo tacere il fatto che la tipologia delle vittime delle foibe fu davvero molto ampia e non trova alcuna giustificazione si tengono conto dei seguenti elementi. Buona parte dei militari deportati e scomparse viene uccisa dopo che si era consegnata prigioniera, quindi in spregio alle convenzioni internazionali. Molti civili vengono deportati alla fine del conflitto ed uccisi anche dopo lunghi periodi di prigionia, in assenza di una qualsiasi garanzia giuridica sulla legittimità della stessa detenzione. In alcuni casi vengono detenuti in piena segretezza per anni nei carceri jugoslave, anche dopo il 50, contro tutti gli accordi internazionali firmati dalla Jugoslavia. Tra i civili non erano soltanto persone accusate di aver collaborato con i tedeschi, ma erano anche esponenti antifascisti del CLN e partigiani italiani che avevano combattuto contro i nazisti, sì, che però non volevano la Jugoslavia di Tito. Tra gli uccisi risultano anche 400.000 tipi di donne, ragazzi e sacerdoti. Le colpe del Stato jugoslavo e del regime di Tito furono perciò ben precise, per cui, in chiave storica, si può parlare di un delitto di Stato e di regime. In sintesi, possiamo dire che vi furono due fattori principali che causarono la tragedia delle foibe e più in generale il dramma delle deportazioni. E fu intanto la lotta nazionale dell'Italia Jugoslavia per la delimitazione dei confini. E poi ci fu anche una dinamica politica ed ideologica che portò all'assunzione del potere da parte del movimento partigiano comunista di Tito. Per i greci jugoslavi la Venezia Giulia doveva essere annessa a qualsiasi costo e quindi tutti coloro che potevano presentare un ostacolo a questo disegno, concreto o anche solo teorico, andavano eliminati. Ma di solito prelevavano commercianti, farmacisti, dottori, insegnanti, soprattutto il ceto medio, il ceto diciamo, culturalmente un po' più elevato. Qualche operaio, hanno preso anche o dei barbieri, ecco, per dire, un paio di barbieri che conoscevo io, che li conoscevo anche perché erano nella società del canottaggio, eccetera, e poi avevano preso, sì, insegnanti, parecchi insegnanti. Comunque Parenzo ha avuto 94 insegnanti tra i foibati e spariti. 94 persone, tra uomini e donne, c'erano anche delle donne. La presa del potere da parte delle autorità comuniste jugoslave avvenne alla fine di una guerra di liberazione che ebbe connotati anche di guerra civile, con un livello di intensità molto forte che non si spense nemmeno nel periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto. La Venezia Giulia, per i vertici partigiani del movimento di Tito, era terra jugoslava e come tale andava trattata. I militari jugoslavi si impegnarono perciò in modo fermo e rigoroso a mettere ordine all'interno del territorio per loro ormai annesso e seguirono un copione brutale e sanguinoso che avrebbero messo in pratica anche nelle altre aree geografiche della nuova Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia che stava nascendo. La tematica delle foibe andrebbe perciò inquadrata nel contesto di un generale ciclo di violenze ed eccidi perpetrati dal regime di Tito, che investì non solo la Venezia Giulia e la Dalmazia, quest'ultima colpita soprattutto nell'autunno del 44 dopo la ritirata tedesca, ma pure altre zone della Jugoslavia ed in particolare la Slovenia e la Croazia, dove le vittime delle purghe politiche ed ideologiche ammontarono ad alcune decine di migliaia di persone. Tali stragi rappresentarono uno dei passaggi cruciali con cui le autorità comuniste presero il potere alla fine del conflitto mondiale e la consolidarono negli anni successivi. Di notte, non so quale ora, ma tra l'una e le due, insomma, dopo la mezzanotte, a notte profonda, e hanno bussato al cancello, chiuso ermeticamente il cancello di ferro. Tutti che sono entrati, volevano Giacomo, sono andati a prendere Giacomo che era febbricitante, aveva una pleurite, quindi era a letto con febbre da pleurite. I genitori hanno cercato di dire non può, questo ragazzo è malato, ha la febbre. partigiani, sono scese nel cortile, c'erano tutti i partigiani, in mezzo a loro c'era mio fratello, mi ha preso in braccio e mi ha detto: ti raccomando, la mamma, non l'abbiamo mai più vista. L'aspetto più drammatico della vicenda delle foibe è che ancora oggi, dopo 60 anni dalla fine del conflitto, i parenti e i familiari delle vittime spesso non sanno dove poter mettere un fiore per i propri congiunti. La storia dell'uomo inizia quando ai morti viene data degna sepoltura. E alle vittime delle foibe, in molti casi, questa umana pietà è stata negata. Meglio tardi che mai, naturalmente. Noi speriamo di sapere la verità. A distanza di tanti anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le tragedie descritte dovrebbero essere liberate da ogni possibile strumentalizzazione politica, per essere definitivamente consegnate alla coscienza civile degli italiani, sloveni e croati, come esempi di delitti contro l'umanità. Per la loro efferatezza, questi massacri meriterebbero di essere condannati sempre ed in ogni caso, senza ricercare giustificazione alcuna né per coloro che li ordinarono né per i carnefici che li eseguirono. Sì, magari qualcuno ha delle domande e potremmo soddisfare un piccolo dibattito nel caso qualcuno abbia o delle obiezioni da fare oppure qualche domanda. Io avrei alcune domande da porre. Innanzitutto condivido pienamente quello che ha detto lei all'inizio. Scusi, può alzarsi in piedi per cortesia? Sì, grazie. Cioè, sulla necessità di portare avanti il discorso della memoria. Condivido in pieno. E ci sono però degli elementi di oggi, sia nella vostra introduzione che nel filmato, che fatico a comprendere. A coordinare? E sì, e principalmente è triste fare un discorso per quanto riguarda solo i numeri delle vittime, perché non voglio fare questo discorso perché sembra sminuire sì. L'episodio di violenza che è stato poi alla base di tutto. Però, lo devo fare a maggior ragione per quanto riguarda il discorso della relazione che è stata fatta nel 2004. Sì. E probabilmente quando voi avete citato i 1492 morti di Trieste, in generale, sì. 1492 morti, credo facciate riferimento al testo di Parini, no? Immagino, che è il testo sì. Sul genocidio del sì. E la stessa commissione ha notato che il 70% di queste vittime in realtà non sono vittime, sono nomi pubblicati, il numero delle vittime in realtà poi è quasi un terzo, no? Quindi sì. ripeto non voglio affatto sminuire. Sì, in alcune circostanze capire. Forse il numero è stato raddoppiato involontariamente, sì, sì. Ecco. Però in altri posti e in altre foibe il numero non è stato riconosciuto in quanto nel fondo della foiba c'era una tale quantità di corpi indistinguibili l'uno dall'altro. Io non, chiedo scusa se mi interrompo, io non parlo di corpi recuperati, quello sì. È evidente, purtroppo dopo tanti anni poi Sì. Beh, no, non di tanti anni. Io, i corpi sono stati recuperati nel 43, sì, nel 45. Non più, io mi riferivo più che altro alla lista, ho citato Parini apposta. Sì. La lista di Parini è piena di errori e di manomissioni che sono state riconosciute dalla commissione del Ministero degli Esteri. Sì. E quindi volevo dire questo prima. E come seconda cosa volevo dire, per quanto riguarda sia il filmato che la vostra introduzione, non è errato forse non affrontare il tema parlando di quello che è stato il comportamento italiano prima del 43 e soprattutto non è errato considerare le violenze dei partigiani e titini dopo come? L'8 settembre 43, visto che il filmato lo cita, anche lo dice, dall'8 settembre 43 al 44 c'era una dominazione tedesca, sì. non c'erano i partigiani titini. No, quindi c'erano tutti, anche tutti loro. Tutti gli articoli che sono stati sì. fatti vedere dal Piccolo di Trieste, sempre la commissione del Ministero degli Esteri, sì. ha riconosciuto che sono vittime fatte dal nazismo. Sì. Quando appunto c'è stato il crollo del partito. Sì, può rispondere lei. Sì. Allora, avevo prima, quando parlavo dell'occupazione tedesca, no? dell'Istria, della Dalmazia, ma soprattutto dell'Istria, i tedeschi, le forze tedesche avevano occupato tutte le principali città e i porti, Fiume, Pola, Zara, eccetera, ma l'interno dell'Istria non era stato occupato dalle truppe tedesche, quindi quel territorio era rimasto praticamente non presidiato dalle truppe tedesche, ragione per cui i partigiani che c'erano lì in quel posto agivano e portavano via la gente. Per quanto riguarda i 1492 persone scomparse da Trieste, questo dato qui l'ho tratto praticamente da documenti del governo militare alleato che c'era a Trieste e che aveva preso contatti, va bene, con il Corpo di Liberazione Nazionale di Trieste e gli avevano dato, il governo militare aveva dato questi numeri, 1492 di persone portate via da Trieste. Sono state più di 1492, le hanno portate via 2500 eccetera, di queste 2500, va bene, 1492 sono sparite, non sono più tornate, gli altri invece sono tornati. Quindi. Faccio una breve replica, poi lascio la parola a tutti, perché mi scopo che non è affatto totale. La relazione della Commissione Visto Storica Culturale di Italo Slovenia, che era quella che stavo citando io, e ribadisco, è stata fatta su iniziativa del Ministero degli Esteri d'Italia e di Slovenia, e dice che, visto che lei dice che l'occupazione tedesca era solo sulle coste, nell'Istria tra l'8 settembre 43 e 44 sono state deportate 17.000 persone dall'esercito nazista e ne sono state ammazzate 30.000, questo perché l'occupazione era solo sulle coste. E poi, per quanto riguarda, riprendo il dato specifico, per quanto riguarda il numero dei caduti di Trieste, la cosa che non riesco veramente a comprendere è che arrivo subito. Secondo la commissione d'inchiesta si tratta di 112 appartenenti alla Guardia di Finanza, 148 alla Pubblica Sicurezza, 151 alle Forze Armate, 105 civili, per un totale di 516 persone. Sì, e c'è una differenza tra 517 delle forze armate, ecco, delle forze armate. No, ho detto 105 civili. Quindi come va interpretata questa analisi che hanno fatto i ministeri? Chi resta a far l'armata? I locali Sì, tutti i militari che sono stati subito portati in foiba. Il problema è chiedere a me, Erman Barbera, ma mi ricorda anche questo modo, eccetera, posso dire portare anche delle persone che erano lì. No, lui contesta la diversità dei numeri. I numeri, vabbè, ma... non si saprà mai esattamente quanti... Quante persone... Scusate, grazie. Prego, prego. E comunque le dirò una cosa, e noi oggi abbiamo fatto una presentazione diciamo un po' generica a braccio, senza soffermarci su tutte le vicende, ma non abbiamo voluto fare insomma una lezione scolastica, abbiamo solo presentato a braccio, a larghi tratti, appunto, quello che è capitato sia in quel momento sia dopo, perché appunto quando io ho fatto riferimento all'importanza della memoria per chi ha abbandonato le proprie terre ed è andato in un esilio che può essere senz'altro paragonato ad una diaspora, perché questi 3500 esuli istriani, dalmati, eccetera, dove sono stati messi? 350.000 quelli che sono stati scacciati. Sono arrivati, beh, più che scacciati, a un certo punto sono stati costretti ad allontanarsi, costretti, perché questa terra non garantiva loro la sopravvivenza, la salvezza, visto anche che molti di loro avevano avuto addirittura 7-8 persone di famiglia infoibate o ammazzate. 350.000 esuli dove sono andati? Sono arrivati in Italia e distribuiti nei 160 campi di raccolta dispersi per tutta l'Italia, ed ecco per questo che parlo di diaspora e anche di separazione di famiglie l'una dall'altra. E la memoria è molto importante, molto, perché non solo gli esuli, ma soprattutto anche i discendenti, i figli, abbiano la consapevolezza della loro storia passata. Ecco, e lei mi chiede delle precisazioni che sinceramente non avevo intenzione di fare, proprio perché ho dato a questo incontro un tono piuttosto aperto, libero, così un po' diciamo leggero, perché se cominciamo veramente a parlare di tanti morti e di tanti episodi di una atrocità incredibile, beh, insomma, penso che tutti si dovrebbero alzare e andare via, ecco. Sì, sì, infatti quello che non comprendo è andare a modificare delle cifre che di per sé sono già drammatiche. Perché cioè, troppo, probabilmente... Anche questi 350.000, in realtà la commissione dice che sono 240.000, perché aggiungere 110.000? Cioè, perché, ecco, li dico subito, perché chi ha redatto questo elenco era padre Flaminio Rocchi, e un sacerdote che ha accompagnato gli esuli attraverso l'Adriatico innumerevoli volte e ha veramente registrato dei numeri consistenti. Che fossero inferiori ai 300.000, ai 350.000, può anche essere, guardi, non discuto, non contesto assolutamente niente, però il numero era veramente grande, appunto distribuito in tutti questi posti di tutta quanta l'Italia, del nord, del sud, della Sardegna e via dicendo, ecco, e trattati molto poveramente. Ma io sempre dico, anche l'Italia in quel momento era estremamente povera, no? Ecco, troppa gente probabilmente ha messo mano a questi elementi. Negli anni 46, negli anni 60 eravamo ancora accusati di essere fascisti. Sì, sì, certo. Chi ha parlato, per cortesia? Franco Cortese, da Fiume. Sì. Sì, ecco qua. Ecco qua il libro adatto. Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani. Italiani, è chiaro. Ecco, non approfondiamo. Sì. Allora, e qualcun altro chiedeva ancora qualcosa? Potrei chiedere una cosa io. A parte il fatto che forse la commissione italo-slava di cui parla il signore probabilmente avrà trovato che ancora il Capodistria e Pola sono italiane, ma qualche dubbio ce l'ho. No. Ecco, io ricordo specialmente questo. Anni 67, mia sorella, scuola superiore, parla delle foibe, la professoressa le ha detto non esistono. Va bene? Lo so. Ecco. Lo so. Altra cosa, molto, e si tende anche a ridurre molto il numero delle persone assassinate e delle persone che sono andate via, perché diciamo davano molto fastidio a una parte politica. Sì. Ora io vorrei chiedere, so che vado su un discorso un po' pesantino, ma le responsabilità di Togliatti in quel periodo non erano enormi? Enormi, imperdonabili. E non erano i nostri comunisti che andavano a denunciare le persone da eliminare? Esatto. Ecco, ora, esatto. Visto questo, io vedrei certe scoperte fatte da commissioni italo-slave, le vedrei con molti, molti dubbi e con molti... Sì. Ecco, e bisognerebbe fare molte precisazioni. Sì. Esatto. Sembra che sia e infatti arrivo subito. E infatti sì. Per essere coerenti. C'è un intervento. Cioè, scusi signore, confermo veramente tutto quello che lei ha detto. Adesso sentiamo, se permette. No, volevo dire che nel filmato, nel documentario, si accennava appena che gli stessi modi, la stessa violenza si è vista in diverse parti dell'ex Jugoslavia. Nello stesso tempo succedeva nel sud della Jugoslavia, in Kosovo, la stessa identica cosa. E qua non l'ho sentito, ma comunque sono in molti che dicono che tutto ciò che è successo sia in Istria che in Kosovo nel 45, la stessa identica cosa, con la stessa complicità dei comunisti albanesi, sì. Perché i comunisti albanesi erano in certo modo nati, il Partito Comunista Albanese è nato dal Partito Comunista, cioè sotto sì. La spinta dei comunisti jugoslavi, cioè quando si sono fondati erano dei emissari jugoslavi nella riunione che ha fondato il Partito Comunista Albanese, con la stessa complicità e con lo stesso scenario che era già sta tuttora penso, sì. C'era un certo Vasa Ciubrilovic, sì. Che nel 1923 ha fatto proprio un elaborato con la quale ha preso il titolo di dottore, che se qualcuno lo legge, cioè io da balcanico quando ho preso in mano sta cosa, l'ho letto in italiano, sono albanese insomma, sì. L'ho letto in italiano, da balcanico mi aspettava di trovare enfasi patriottica, nazionalista, cioè le nostre terre, li dobbiamo andare. Non c'è nulla di questo. È come un chimico che parla delle vite umane come se fossero delle proiette dove tu versi una cosa e dice proprio la stessa cosa che ha detto il signore prima, che bisogna colpire i punti, cioè i nodi del tessuto sociale, cioè il medico, il farmacista, l'insegnante. Il prete, perché tanti preti hanno affrontato il martirio. Allora gli altri scappano tutti. Sì. È successo la stessa identica cosa, sì. Se sono 500 o se sono 1500 a Trieste, secondo me ha poca importanza, sono 350 dopo la guerra, dopo la fine della guerra. Sono nel 1914, quando la Jugoslavia ha preso il Kosovo, sono stati 300.000 altri che sono andati in Turchia, in Albania, parlo di albanesi. La stessa identica, lo stesso identico scenario, con la stessa identica ostinazione. Mm-hmm. Un'epurazione etnica. La stessa cosa che Milosevic poi ha adattato nelle varie guerre che ha fatto nell'ex Jugoslavia, la stessa cosa che ha fatto anche in Kosovo. L'unica cosa e quanti anni erano passati? Diciamo almeno 40. Ecco. Questo qua è stato sia ministro sotto il periodo del regno della Jugoslavia, sì. È stato anche ministro sotto il Tito, Vasa Ciubrilovic. Ancora oggi ci sono scuole e istituzioni in Serbia che dedicate il nome a lui. Di questo qua, sì. che è morto a 100 e passa anni in quella serie. La ringrazio molto. Grazie. Ecco, veramente interessante, sì. E c'era una signora che chiedeva qualcosa. Prego, signora. Io volevo dire che io non sono di origini istriane. No, ma non tutti qui, sì, ormai siamo pochi. E sono venuta qui proprio per onorare i miei concittadini, perché so che molti vengono da lì, e proprio per onorare la memoria. E mi è stato molto piacere sentire l'intervento del signore, che fa capire come le brutalità ci sono un po' diffuse e tutti i gruppi etnici poi più o meno ne hanno sofferte. E questo secondo me permette anche di dare una visione diversa, ad esempio, alla storia locale. Sì, no? Sì, sì, si possono fare dei confronti, si allargano gli orizzonti. E, ecco, quindi volevo proprio onorare le persone che hanno vissuto queste cose. Volevo però anche spezzare una lancia a favore della coerenza storica. Sì. Io capisco il ragazzo, il signore che ha parlato, perché capire le fonti e dare delle fonti corrette permette proprio di evitare equivoci e di onorare la memoria. Quindi io non ho vissuto quello che ha detto lui come una cosa contraria o come una cosa che nega l'atrocità di quello che è successo, ma proprio come una volontà di dare onore. Io l'ho vissuta positivamente, perché più si parla, più si cerca di contare, più si cerca di dire, non importa se sono 10 in più, 20 in meno, magari loro li hanno contati in un modo, lui voleva sapere in che modo li ha contati, da dove arrivano queste cose, no? E secondo me questo è il fatto. Ci sono fonti diverse ed è giusto che si vedano, secondo me, i numeri, perché questo ti dà anche un quadro più chiaro della situazione. Però ecco, questo onorando la memoria di tutti. E io proprio volevo dire la memoria dei miei cittadini, che per me è molto importante, a me fa sentire vicino a loro. Questa serata, questa occasione che abbiamo avuto di scoprire delle cose nuove, anche per me tanti argomenti non sono. Eppure così, deve essere almeno il sesto incontro che facciamo. Confermo eppure che c'è sempre nei qualcosa manuali di da scuola scoprire. Questi argomenti non esistevano, non facevano parte del programma. E, è così, la storia, come diceva già Tucidide, dovrebbe essere una sequenza obiettiva di elementi, di dati, di testimonianze incontestabili, dimostrabili e comunque sempre e solo imparziali. Ma la storia dimostra anche che la storia non è così. Quindi la biblioteca, che è un luogo pubblico ed è soprattutto un luogo aperto a tutti, offre sempre e comunque tutta la documentazione possibile ed esistente di qualunque, tra virgolette, concedetemi, parrocchia, in maniera tale che ognuno possa farsi a 360 gradi un'idea di quelle che sono state le foibe, le cifre, i numeri. Giustamente le dice, vorrei sapere le fonti. È vero, è una domanda assolutamente interessante e imprescindibile, però è proprio per questo che l'ente pubblico offre delle occasioni e cerca continuamente di tenersi aggiornato, ed è solo la biblioteca, perché chiaramente nella scuola subentrano poi altre scelte limitate, perché appunto c'è un programma da seguire, ci sono dei contenuti da calibrare a seconda delle classi, poi c'è l'università con altre indicazioni, ma la biblioteca veramente può offrire tutto. Quindi continueremo con la giornata della memoria, con la giornata del ricordo, con la settimana della violenza e contro il razzismo che sarà in marzo, con tutte le occasioni che il calendario ufficiale a livello anche internazionale ci offre. Grazie a tutti e grazie.